Gaza ha aperto una frattura nella storia che studiamo, nelle parole che usiamo, nei futuri che immaginiamo. In Europa, tra i miei più traditi e i movimenti che resistono, qualcosa nel modo di fare storia è cambiato. Questo è Fare Storia ai tempi del genocidio a Gaza ed è un tentativo di tenere insieme metodo, dolore e impegno politico. Parlare di letteratura di fronte al massacro. Ha senso leggere e scrivere di fronte ad una tragedia? A guidarci nella costruzione di questa puntata c'è sicuramente il fatto che la letteratura, e il romanzo in particolare, ha sempre avuto una funzione essenziale nella rielaborazione e nel racconto di grandi avvenimenti storici, anche nei confronti del genocidio. Giusto per restare sui grandi classici del Novecento, Primo Levi, con Se questo è un uomo e i suoi libri successivi, ha dato forma al racconto dell'orrore dei lager, andando oltre la memorialistica dei sopravvissuti, provando a razionalizzare quell'orrore. La violenta pulizia etnica praticata dai nazionalisti nei Balcani ha avuto da poco il suo romanzo simbolo nella scrittura di un romanzo storico sulla strage simbolo di Srebrenica con Il metodo Srebrenica di Vika Dikic. Nel racconto della Palestina, di Israele, nel costruirsi della loro memoria, la letteratura ha giocato sempre un ruolo importante, tanto per la società palestinese quanto per quella israeliana, giocando spesso anche un ruolo politico di primo piano nello scontro e in alcuni casi nel confronto con l'avversario. Facciamo alcuni nomi. Ghassan Kanafani, scrittore simbolo della generazione della resistenza, che è stato portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina e per questo è stato ucciso. Le vignette di Andra di Najih Halali, che sono diventate il simbolo della resistenza e dell'intifada. Amos Oz, scrittore premio Nobel che ha raccontato la parte fondativa di Israele dei kibbutz, che però è diventato sostenitore del dialogo con i palestinesi. E lo scrittore per ragazzi David Grossman, che ha aperto la strada ad un discorso pubblico sulla riconciliazione attraverso libri come La guerra che non si può vincere, cronaca dal conflitto tra israeliani e palestinesi, o Con gli occhi del nemico, raccontare la pace in un paese in guerra. Citare Oz e Grossman è importante perché attraverso l'impegno di voci autorevoli e riconosciute provenienti dal mondo della cultura che è passata alla proposta del dialogo e della necessità della pace poi. Proprio questi due furono protagonisti della richiesta della pace e delle trattative durante la guerra in Libano del 2006. Ma con il 7 ottobre qualcosa si scardina e si sfalda, non sembra più esistere possibilità di dialogo, nemmeno nell'ambito della letteratura. Una delle figure che in questo senso è stata molto presente è stata proprio la figlia di Amos Oz, Fania Oz Salzerberg, che sul Corriere della Sera del 13 ottobre del 2023 così scriveva. Coloro che giustificano la guerra di liberazione di Hamas e tracciano paralleli tra i bombardamenti israeliani su Gaza e il massacro dei civili nel sud di Israele non fanno altro che sostenere sfacciatamente questi nuovi nazisti. E molti di questi presunti pacifisti sono americani. Non è più il tempo di misurare le parole. I sicari di Hamas sono la feccia della terra. Mai l'esercito israeliano è stato chiamato a raccolta per scannare i civili palestinesi, i disabili e gli anziani, i ragazzini, i neonati al seno delle madri, sterminandoli a colpi d'arma da fuoco. Mai sono stati massacrati deliberatamente i civili, senza che ci fosse traccia di un obiettivo militare nella zona. Mai la morte accidentale degli innocenti è stata accolta con grida di giubilo e manifestazioni di esultanza. Mio padre, Amos Oz, per fortuna è scomparso 5 anni or sono. Tanti di noi si consolano, oggi, al pensiero che i propri genitori, la generazione fondatrice di Israele, i suoi combattenti, sognatori e pacifisti, non sono più tra noi per assistere alla tragedia che si è abbattuta sul nostro popolo. Contraltare di interventi fatti a caldo di questo tenore l'ha fatto, dopo un lungo silenzio, David Grossman in un'intervista del 1 agosto 2025 sulla Repubblica. Leggere in un giornale o ascoltare nelle conversazioni con gli amici in Europa l'accostamento delle parole Israele e fame, farlo partendo dalla nostra storia, dalla nostra presunta sensibilità alle sofferenze dell'umanità, dalla responsabilità morale che abbiamo sempre detto di avere verso ogni essere umano e non soltanto verso gli ebrei, tutto questo è devastante e mi manda in confusione, non dal punto di vista morale ma personale. Mi chiedo come siamo potuti arrivare a questo punto, a essere accusati di genocidio. Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola, genocidio, ma adesso non posso trattenermi dall'usarla dopo quello che ho letto sui giornali, dopo le immagini che ho visto e dopo aver parlato con le persone che sono state lì. Ma vede, questa parola serve per dare una definizione, o per fini giuridici. Io invece voglio parlare come un essere umano che è stato dentro questo conflitto e ha avuto l'intera esistenza devastata dall'occupazione e dalla guerra. Voglio parlare come una persona che ha fatto tutto quello che poteva per non arrivare a chiamare Israele uno stato di genocida. E ora, con immenso dolore e con il cuore spezzato, devo constatare che sta accadendo di fronte ai miei occhi. Genocidio. È una parola valanga. Una volta che la pronunci non fa che crescere, come una valanga, appunto, e porta ancora più distruzione e più sofferenza. Grossman ha avuto bisogno di 2 anni, un lungo silenzio in cui si è ritirato nella scrittura per tornare a prendere posizioni in maniera così determinata e forte. Come lui, anche altre scrittrici, come Dorit Rabinian, l'autrice di Border Life, l'hanno fatto, rendendo la letteratura un terreno nuovamente aperto al dialogo. Ma è veramente così aperto per le voci che vengono da Gaza, dalla Cisgiordania e dalla diaspora palestinese? Cos'è successo nella letteratura palestinese in questi anni? Nelle nostre librerie e nella nostra stampa, scrittrici e scrittori palestinesi non hanno mai trovato così tanto spazio, ed è comprensibile e giusto. Per cercare di capire come la strage in corso a Gaza sia entrata nella letteratura palestinese, ci siamo rivolti a Maria Elena Paniconi, professoressa associata di lingua e letteratura araba all'Università di Macerata, che la Biblioteca Cabral di Bologna coordina il gruppo di lettura sulla letteratura araba contemporanea. È entrata e soprattutto è entrato, diciamo, il genocidio che si è consumato dal 2023 dentro l'espressione poetica, che da sempre ha una funzione anche sociale e politica nel mondo arabo. È stata l'espressione poetica, il primo linguaggio a assorbire, registrare quanto stava avvenendo. Questo non significa che non ci sia stata anche nella narrativa una messa in narrazione della deumanizzazione sistematica che il popolo palestinese ha subito di conseguenza alla occupazione israeliana. Ci sono poi delle testimonianze che letterarie, se sono letterarie o no, questo lo definirà, diciamo, tutto il processo poi di canonizzazione, no? Che in qualche modo fa decantare, no? Ogni scritto, perché adesso è prematuro, ecco, giudicare questi testi come opere letterarie. Sono sicuramente però dei testi interessanti le shahadat, le testimonianze in forma di prosa o poesia che sono state anche raccolte in traduzione italiana. Dunque, andando per ordine, forse la raccolta che in Italia ha avuto più successo è Il loro grido e la mia voce, no? Libretto antologico di Fazi per la cura di Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti, curato da loro e con la traduzione di Nabil Salamè. Postfazione di Susan Abulhawa, già autrice di Tutte le mattine a Jenin. Questo testo rappresenta forse la versione poetica registrata o più vicina, diciamo, ai tempi del genocidio, intanto che alcuni dei poeti e delle poetesse sono morti durante gli attacchi a Gaza. E la stessa genesi dell'antologia è legata alla celebrazione di uno di questi poeti morti. Quindi in questa antologia di poeti con una, come dire, propensione per l'ascolto delle voci giovanili, troviamo sicuramente una grande attenzione verso al massacro che si sta compiendo, ma la storia è sconvolgente. È che queste sono innanzitutto poesie che parlano d'amore, che parlano di vita, che parlano di affetti. Quindi la poesia sotto tempo di genocidio ci sorprende perché parla sì di genocidio, ma in realtà celebra la vita. Questa forse è la cosa più sconvolgente. Allo stesso modo, le testimonianze che abbiamo letto anche qui alla Biblioteca Cabral sono testimonianze che fotografano il quotidiano sotto genocidio. Quindi ai tempi del genocidio e la sopravvivenza in qualche modo disperata di gente comune. Ci sono voci ovviamente anche che appartengono al campo del giornalismo, al campo anche dell'industria culturale, però soprattutto sono anche voci che registrano la vita quotidiana. E il testo a cui mi riferisco è Ho ancora le mani per scrivere, Testimonianze dal genocidio di Gaza, cura di Aldo Nicosia, edizioni Q. È un progetto di traduzione collettivo di un volume uscito in prima battuta in arabo, voluto dal curatore Aldo Nicosia e gestito in brevissimo tempo, mettendo all'opera 40 traduttori proprio perché il curatore voleva rendere subito fruibili in italiano queste voci palestinesi. Questi sono due testi che consiglierei, al di là del discorso del merito letterario. Sicuramente merito letterario c'è, ma sarà poi ovviamente la critica, no? I discorsi magari sul merito estetico, e quello verranno dopo. In realtà tutti e due questi testi sono urgenti per la testimonianza di vita. I palestinesi non vogliono essere identificati con la vittima e li stiamo conoscendo i ragazzi che arrivano attraverso i programmi YouPulse. Sono ragazzi che non stanno nel ruolo della vittima o del profugo, sono ragazzi abituati a combattere, sono ragazzi ambiziosi, sono ragazzi estremamente versatili, poliglotti, che non devono e che non si sentono in qualche modo in posizione di inferiorità o presunta, disparità rispetto agli studenti internazionali, e sono quanto di più opposto si possa immaginare rispetto al ruolo di vittima che spesso associamo ai palestinesi e anche ai palestinesi nel genocidio. Nel corso della chiacchierata che si è svolta al Cabral ci è tornata in mente un'intervista che la giornalista di Repubblica Francesca Cafferri aveva fatto all'architetta e scrittrice palestinese Suad Amiri. Nel primo anniversario del 7 ottobre Cafferri le ha chiesto se la letteratura possa essere ancora un ponte di dialogo, come auspicato da scrittori e scrittrici israeliani. La risposta di Amiri è chiarissima e lapidaria. Credo nel potere della letteratura, ma non capisco cosa intende quando dice dialogo. Crede che gli ebrei potessero dialogare con i nazisti nei campi di concentramento? Crede davvero che io possa accettare che mi spieghino il concetto di supremazia ebraica? E perché a loro va bene trattare metà della popolazione che vive tra il fiume e il mare come cittadini di seconda e terza classe? Gli israeliani che sono contro le politiche razziste del loro governo e i ragazzi che rifiutano il servizio militare non hanno mai chiesto il dialogo con i palestinesi. Sono i liberali che non prendono posizione chiara contro le politiche razziste di Israele a farlo. Sentiamo cosa ci ha detto a questo proposito Maria Elena Paniconi. Se penso alla narrativa che apre in qualche modo al confronto, non penso alla narrativa contemporanea. In questa narrativa, anche nei romanzi che vorrei citare come apporti appunto anche dell'editoria, del lavoro di traduzione, no? Contemporanei, lo spazio dell'incontro non c'è, perché questo è lo spazio della storia di un popolo che subisce la spersonalizzazione e la depersonificazione, la disumanizzazione, la disumanizzazione, seleziono questo termine, dal 1948. Quindi questa narrativa è una narrativa che viaggia nel tempo e che espone la realtà di questo popolo, l'aspetto della costruzione di ponti e della fiducia nell'altro non può avere spazio nella narrativa di questi anni. I nomi, per esempio, che mi vengono in mente è Adania Shibli, Un dettaglio minore, e Ibtissam Azem, Il libro della scomparsa. Sono due donne che aprono due finestre in due mondi diversi della Palestina, ma ugualmente comunati da questa assenza di una prospettiva dialogante, proprio perché sono romanzi che raccolgono esperienti e le tecniche diverse e mostrano tecniche letterarie diverse, però si focalizzano sul portato di morte che in qualche modo investe il popolo palestinese, cioè sulla realtà odierna. Il primo è Una storia che viaggia nel tempo, Un dettaglio minore, che è stato tradotto in italiano per La nave di Teseo da Monica Ruocco. È un libro assurdo poi all'onore di tutte le cronache nel 2023, perché all'autrice era stato conferito il premio della Fiera del Libro di Francoforte e poi gli è stato ritirato all'indomani del 7 ottobre 2023. A questa azione da parte appunto del jury della Fiera di Francoforte è seguita una lettura pubblica in molte università, biblioteche, scuole da parte di noi arabisti, proprio perché volevamo dare voce a un'autrice che a mio avviso ha il merito appunto di trasportare in un viaggio nel tempo il lettore, facendogli vedere attraverso una storia potentissima le continuità tra il progetto di occupazione, disumanizzazione, controllo coloniale sionista, 1948, prima metà del libro, e la attuale impossibilità, discriminazione, impossibilità di muoversi nello spazio, impossibilità a partecipare e avere accesso a qualunque tipo di diritto politico, sociale, umano, ecco, da parte della cittadinanza palestinese nei territori occupati. Questo è un dettaglio minore. È una storia, peraltro, è la storia di un viaggio nel tempo e nello spazio, nel passato palestinese, che richiama, ecco, a sé un afflato magico. Quindi è veramente un libro trasformativo. Non si è più la stessa persona dopo averlo letto, è molto potente. L'altra storia che attinge alla distopia politica, al linguaggio della distopia politica da un lato e dell'irreale, dell'assurdo dall'altro, è il libro della scomparsa di Ibtissam Hazem. Lì invece la prospettiva è quella dei palestinesi, degli arabi del 48, quindi di quella 20% della popolazione israeliana che sono i palestinesi, che per vari motivi, a volte casuali, non tanto di volere ma spesso per anche motivi casuali, si è trovata all'interno dello Stato di Israele, quindi non espatriata, molto spesso deterritorializzata e deprivata della propria casa, ma all'interno dello Stato di Israele. In questo libro, nella notte di un giorno X, il libro è ambientato nella nostra contemporaneità, tutti i palestinesi dello Stato di Israele scompaiono. Emergono quindi le varie relazionalità che gli israeliani possono avere con i palestinesi della porta accanto. Emergono i problemi nell'azienda e cui, no, lavoratori sono palestinesi, nell'ospedale cui i medici e gli infermieri sono palestinesi, il giornalista liberale che in qualche modo si vanta di avere un amico palestinese, ecco, se leggete il libro capite che in realtà il terreno per questa sintonia e comune preoccupazione non c'è. Non voglio fare spoiler, ma il giornalista liberale si avvicinerà sempre di più alla memoria lasciata attraverso l'espediente narrativo vecchio come il cucco del diario ritrovato del suo amico palestinese, e per leggerlo diciamo che si accomoderà nel salotto di casa sua fino poi a essere sempre più comodo in questo salotto. Quindi la metafora è quella dell'occupazione anche nello spazio narrativo. Non c'è quindi uno spazio di narrativo per adesso improntato alla rappresentazione di un dialogo realistico, perché ora non sarebbe possibile, non sarebbe più che realistico, perché poi la narrativa non si nutre di realismo, non sarebbe nel patto coi lettori, non starebbe nel patto coi lettori. Politicamente inaccettabile, e la narrativa, tutta la narrativa, la letteratura è politica, e in questa credibilità politica che deve avere la letteratura, il dialogo adesso non può avere una voce. Diceva Ghassan Kanafani, tipo di dialogo che si ha tra la lama e il collo. Impara dalla storia, ce l'hanno detto tante volte, affinché non accada mai più. Sentito altrettante, ma cosa serve studiare la storia? Anche questa frase ascoltata parecchio. Con questo podcast abbiamo voluto lasciare spazio alla complessità, per ricordare e ricordarci che non è necessario né sufficiente il collegamento con l'attualità per fare della buona storia. Per essere delle buone storiche e storici, e siamo convinte che tutti e tutti possano esserlo, serve avere un'irrefrenabile curiosità, porsi le domande adeguate, non accontentarsi delle semplificazioni, non tanto per mettere in discussione tutto, ma per vedere come quel tutto è tenuto insieme. Quel contesto deve essere la nostra ossessione. Fare storia ai tempi del genocidio a Gaza è un podcast di Van Loon, il programma di storia di Radio Città Fujiko. Si ascolta sul nostro sito radiovanloon.info, sul sito della radio e sulle piattaforme podcast.